perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Immigrazione, Gentiloni a Bruxelles, dice: mi attendo più sostegno. Domani il Consiglio europeo con l'ombra della decisione ungherese della detenzione per i richiedenti asilo. 8 marzo, sciopero generale che divide in molti paesi per la parità di salario, di diritti e contro il femminicidio. Milano intanto esporta il suo modello contro la violenza in tutte le questure italiane. Oltre 100 morti a Kabul nell'attacco di un commando armato contro l'ospedale militare. 5 terroristi l'ISIS ha rivendicato. È morto Danilo Mainardi, è stato tra i più noti e stimati etologi italiani, volto anche televisivo, protagonista delle trasmissioni di Piero Angela. Il giorno del giudizio per molti nomi di luoghi in Alto Adige, arriva la decisione se passare alla sola versione tedesca o se conservare anche quella italiana. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 è il numero per gli sms e per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno @radio24.it se ci volete scrivere, e poi c'è la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, dalla quale poi tra l'altro andiamo in diretta a partire dal nostro giro per l'Italia che, come sapete tutti, inizia verso le 13:15. In apertura però andiamo a sentire questi audio, vediamo se riusciamo ad ascoltarli. I rumori che sentiamo al momento sono pochi, però sono rumori che arrivano davanti alla sede del Mattino a Napoli, dove ci sono stati scontri e ci sono ancora tensioni. Perché? Perché nel quotidiano napoletano c'è un forum con Matteo Salvini e c'è una protesta anche dei centri sociali e non solo dei centri sociali. Tra poco andremo a collegarci a Napoli per sentire com'è la situazione, se le cose si sono tranquillizzate dopo gli scontri che ci sono stati poco fa. In apertura però parliamo di Europa e di immigrazione, temi che il Presidente del Consiglio Gentiloni ha affrontato in Parlamento alla vigilia del vertice europeo. Sentiamo. Eh sì, è così, Simone, buongiorno. Sì, Gentiloni, buongiorno Vincenzo Miglietta. Sì, sì. Gentiloni ha di fatto rivendicato in apertura del suo intervento al Senato la solidità e la credibilità del suo esecutivo. Con il sostegno del Parlamento, ha spiegato allora il Premier, il governo potrà svolgere al tavolo europeo un ruolo all'altezza dell'Italia. Italia che continua sulla strada delle riforme, ha detto Gentiloni. Su questo non accettiamo in Europa lezioni, Bruxelles sappia che le riforme non si fermano. Altro capitolo, quello dell'Europa a due velocità, non è un progetto contro qualcuno, ma è una realtà di fatto, ha detto il Presidente del Consiglio. Sentiamo questo passaggio. Capisco che in qualche paese membro dell'Unione questa prospettiva possa essere vista con preoccupazione, ma si tratta, ripeto, di dare delle chance in più a una realtà che abbiamo già davanti e non certo di modificare questa realtà. Gentiloni ha detto quindi no alla rigidità europea con le virgole sui bilanci e no alla rigidità distratta sui temi dell'immigrazione, il cui approfondimento non rappresenta una pretesa dell'Italia ma una decisione comune presa dall'Unione. Il problema dell'immigrazione non lo cancella neanche il mago Merlino, ha chiarito il Premier. L'obiettivo è sostituire immigrazione clandestina irregolare con flussi e canali più accettabili e mi aspetto un passo in più in termini di risorse per aiutare l'Italia nella gestione dei migranti provenienti dalla Libia. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta. Appunto, l'immigrazione, dopo l'annuncio dell'Ungheria, resta al centro della scena. Sentiamo. Il Consiglio d'Europa bacchetta l'Italia sui migranti. In particolare l'ambasciatore Thomas Bocek considera le debolezze del sistema italiano di rimpatri volontari e delle espulsioni un incoraggiamento per l'afflusso di un sempre maggior numero di migranti economici irregolari. Non funziona inoltre, secondo il Consiglio europeo, il sistema di custodia legale italiano per i minori non accompagnati. Intanto a livello europeo, da registrare, dopo il via libera da parte dell'Ungheria ad una legge che prevede la detenzione per i richiedenti asilo, la presa di posizione del cancelliere austriaco Christian Kern, che ha proposto un taglio degli aiuti finanziari europei a quei paesi dell'Europa centrale e orientale che boicottano l'accoglienza dei rifugiati. L'Ungheria è uno dei più grandi beneficiari dei trasferimenti finanziari e di bilancio dell'Unione Europea nel periodo 2008-2015. Per il premier Orban, l'Ungheria è sotto assedio. La misura di Budapest, secondo l'Agenzia ONU per i rifugiati e per molte ONG, tra cui Amnesty International, è inaccettabile. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo all'inchiesta Consip, perché ci sono degli aggiornamenti, tra l'altro, che arrivano proprio negli ultimi minuti, mentre la questione resta al centro della scena politica. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. La Procura di Roma dice no alla scarcerazione di Alfredo Romeo, indagato nell'inchiesta Consip, detenuto a Regina Coeli dal 1 marzo scorso per corruzione. Il procuratore aggiunto Paolo Ielo e il sostituto Mario Palazzi hanno espresso il proprio parere sulla richiesta di revoca dell'ordinanza di custodia cautelare avanzata dalla difesa di Romeo, mentre la decisione del GUP Sturzo è previsto per la fine della settimana. Il vicepresidente del CSM poi, Legnini, attacca sulla fuga di notizie: costituisce un caso eclatante e rischia di minare la credibilità degli organi inquirenti. Il CSM non può ignorare il ripetersi di tale episodi. Intanto si difende Tiziano Renzi, dice che da quando suo figlio è diventato premier lui non ha fatto alcun lavoro con la pubblica amministrazione. Ricordiamo poi la scadenza degli appuntamenti parlamentari: il 15 marzo al Senato ci sarà la discussione e il voto sulla mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle al ministro Luca Lotti, coinvolto anche lui nell'inchiesta, mentre oggi il ministro dell'economia Piercarlo Padoan alla Camera, quindi qui alla Camera, risponderà sul DD Consip Luigi Marroni durante il question time. A te Simone. E grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. Veniamo allo sciopero di oggi, che si diceva divide. Diteci anche se volete come la pensate al 349-238-6666 via SMS, su WhatsApp o sulla nostra pagina Facebook. Sciopero che divide quello dell'8 marzo. Sentiamo. Non celebrazioni ma protesta globale. Quest'anno la giornata della donna è all'insegna di scioperi e manifestazioni in tutto il mondo contro discriminazioni e violenza. In Italia per 24 ore incrociano le braccia alcune sigle del pubblico impiego, in particolare nell'ambito del trasporto locale, della scuola e della sanità. E non a caso lo slogan prescelto è l'8 marzo dal verbo lottare. Bandiere a mezz'asta in piazza Montecitorio in memoria delle vittime di femminicidio, che per il presidente della Repubblica Mattarella rappresenta per l'Italia un'emergenza sociale tragica ed inquietante. Lo sciopero globale è promosso in tutto il mondo dal Movimento Internazionale delle Donne e in Italia da Non Una di Meno, rete attiva contro la violenza di genere in tutte le sue forme: oppressione, sfruttamento, sessismo, razzismo, omo e transfobia. Lo slogan è: se le nostre vite non valgono, noi scioperiamo. Nel mondo il divario tra la condizione femminile e quella maschile in vari ambiti non solo non si riduce ma aumenta. I dati presentati al World Economic Forum per il 2016 vedono il nostro paese al 50° posto quanto a parità di genere. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Molti disagi anche per lo stop dei trasporti e le scuole chiuse. Trasporti pubblici fermi in molte città dalle 8:30 del mattino per lo sciopero di 24 ore indetto dai sindacati di base contro le discriminazioni nei confronti delle donne. A Roma le tre linee metropolitane A, B e C e la Roma Lido sono chiuse, mentre per bus e tram, fa sapere l'ATAC, sono possibili cancellazioni di corse o sospensioni di alcune linee. Possibili riduzioni di corse anche sulla linea Roma-Viterbo. Servizio regolare invece in mattinata a Milano, dove secondo ATM, l'azienda municipale del trasporto pubblico, le cinque linee metropolitane sono regolarmente in funzione. Bassa l'adesione allo sciopero a Napoli, dove, rende noto l'azienda che gestisce la metropolitana, sono regolari le corse della linea 1 e le funicolari. L'astensione del lavoro ha raggiunto il 12% di adesioni. In tutte le città i mezzi pubblici torneranno a funzionare nella fascia di garanzia dalle 17 alle 20. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore Roma. Ci spostiamo all'estero adesso e andiamo in Afghanistan. C'è l'ISIS dietro al pesante attacco all'ospedale militare di Kabul di questa mattina. Un commando composto da diversi terroristi ha assalito il nosocomio, che si trova nella zona diplomatica nel centro della capitale afghana, a poche centinaia di metri dall'ambasciata degli Stati Uniti e dal Ministero della Salute. Gli assalitori sono entrati indossando camici bianchi. In quel momento c'erano decine di pazienti. Un kamikaze si è fatto esplodere, un altro è stato ucciso dalle forze di sicurezza afghane che hanno circondato l'edificio. Non è la prima volta che l'ospedale militare viene preso di mira. Era già stato obiettivo di un attacco kamikaze nel 2011. Qui vengono infatti curati i membri delle forze di sicurezza e i loro familiari. Dura la condanna del presidente Ghani. Sono stati violati, ha detto, i diritti umani. Dappertutto e per tutte le religioni gli ospedali sono luoghi intangibili. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca italiana: una donna è morta carbonizzata e un uomo ha riportato ustioni sul 30% del corpo a causa di un incendio scoppiato la notte scorsa in una baracca tra via dell'Assunta e via Broni a Milano. Le fiamme sono divampate poco dopo le 23:30. Nella baracca è stata trovata, tra l'altro, una bombola a gas. E siamo in grado adesso di collegarci con Napoli, dalla sede del Mattino, appunto il quotidiano napoletano, c'è Laura Viggiano per aggiornarci un po', visto che ci sono stati, come abbiamo raccontato, degli scontri per la presenza di Matteo Salvini nella sede del Mattino. Laura, qual è la situazione ora? Sì, buongiorno. In questo momento è tutto tornato alla tranquillità. Il gruppo di manifestanti iniziale, insomma, è stato sostanzialmente diviso in due. Questa mattina, diciamo, l'arrivo di Salvini ha un po', tra virgolette, sorpreso, nel senso che era atteso per l'11, per sabato, insomma, quando si svolgerà una manifestazione della Lega alla Mostra del Mare nel quartiere Fuorigrotta. Si è saputo appunto dell'incontro, dell'intervista alla redazione del Mattino, dunque un gruppo di una quarantina di ragazzi è arrivato davanti alla sede del quotidiano. Si sono seduti davanti all'ingresso della redazione, la polizia li ha spostati senza che ci fossero scontri, sebbene, insomma, come immaginabile, si sono vissuti, insomma, dei momenti di tensione. Poi si sono spostati dall'altro lato della strada di via Chiatamone e a un certo punto, insomma, non più di una trentina di minuti fa, hanno provato a forzare il cordone delle forze dell'ordine per avvicinarsi nuovamente alla sede del Mattino, dove è in corso l'incontro con Matteo Salvini. In questo momento, come vi dicevo, però, la situazione è tornata alla tranquillità. I manifestanti appartengono essenzialmente ai centri sociali. C'è un gruppo di donne con fasce fucsia tra i capelli che sostanzialmente protestano specificamente contro una politica sessista e discriminatoria. Io ti ringrazio, grazie a Laura Viggiano per questo aggiornamento da Napoli. Ci spostiamo in Calabria, due maestre sospese per maltrattamenti. Sono state sospese dalla loro attività di insegnamento le due maestre cinquantenni di una scuola elementare di Oppido Mamertina, nel Regino, inchiodate dalle immagini girate da una telecamera nascosta dei carabinieri. Dal novembre scorso i militari stavano indagando su di loro, dopo che alcuni genitori avevano segnalato che i loro figli, che frequentano una quinta elementare, tornavano a casa con lesioni sul corpo e al volto. E così si è scoperto che le due insegnanti, nel corso delle lezioni, maltrattavano i propri alunni, li ingiuriavano e li minacciavano. In alcuni episodi sottoposti al vaglio della procura si nota chiaramente come le due maestre, infastidite dal comportamento degli alunni, si rivolgano a loro urlando e colpendoli con violenti schiaffi al volto o anche spintonandoli. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria. È morto l'etologo Danilo Mainardi. Etologo, ecologo e divulgatore scientifico. Danilo Mainardi era laureato in zoologia a Parma, dove aveva insegnato, come all'Università Veneziana di Ca' Foscari. Grande amico di Piero Angela, al grande pubblico era noto anche per la sua partecipazione a diverse puntate di Quark e Super Quark. Era presidente onorario della LIPU, la Lega per la Protezione degli Uccelli, dal 2002. Grande amore per gli animali, strigliate invece agli esseri umani, come quando spiegò in TV che non siamo intelligenti come vogliamo far credere. Intelligente è la specie che sa proteggere se stessa. Si è autodefinita la specie più intelligente, Homo sapiens, sia effettivamente da questo punto di vista più intelligente, perché ha distrutto il proprio habitat e ha distrutto quelli che sono gli equilibri naturali per i quali anche essa era adattata per vivere. Anna Rita Rambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per calcio, niente da fare per il Napoli. Il Real Madrid abbatte il sogno Champions dei partenopei a forza di colpi di testa. Fuori di testa. Sì, perché servono due capocciate di Sergio Ramos, il capitano del Real, che con queste inzuccate ha vinto mondiali, europei e Champions, per sbattere fuori il Napoli dall'Europa. Un KO che fa ancora più male, perché prima delle due prodezze di Ramos, a inizio ripresa, decisiva sulla seconda alla deviazione di Mertens, ribaltare il 3-1 del Bernabeu era sembrato possibile. Accorto il Napoli, ma senza rinunciare a far male. Ed eccolo allora al 24esimo, il triangolo che permette a Mertens di infilare l'1-0. Il Real reagisce, Ronaldo colpisce un palo clamoroso, ma proprio Mertens lo imita poco dopo. Ma a inizio secondo tempo ecco le due testate di Sergio Ramos che chiudono troppo presto il duello. Nel finale poi ci pensa Morata a infilare il 3-1 che bissa il KO dell'andata. I Blancos di Zidane vanno ai quarti e i ragazzi di Sarri per consolarsi non resta che l'applauso del San Paolo. Il capitano azzurro Marek Hamsik. Sono andati fuori con testa alta perché per un tempo hanno dimostrato di giocarcela con una delle migliori squadre del mondo. Peccato per aver preso i gol su calci piazzati. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade. Naturalmente torneremo a parlare della partita di ieri a partire dalle 14 in tutti i convocati, senza ombra di dubbio, come si diceva. Sentiamo cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Inizieremo da Milano, dove il protocollo che ha messo in piedi la questura di Milano contro la violenza sulle donne e contro lo stalking viene esportato praticamente in tutte le questure italiane, e torneremo a occuparci di una vicenda sulla quale siamo tornati spesso, questa vicenda dei toponimi, ossia dei nomi dei luoghi in Alto Adige. E molti nomi di luoghi in Alto Adige potrebbero perdere il doppio nome, cioè quello italiano e quello tedesco, in favore del solo tedesco. Ci sono grandi proteste, grandi preoccupazioni, come sapete anche un appello dell'Accademia della Crusca. Ci torniamo tra poco e ci vedremo anche in diretta sulla nostra pagina Facebook. A tra poco. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato delle dichiarazioni del ministro Gentiloni in aula in vista del premier Gentiloni in aula in vista del Consiglio europeo, e abbiamo parlato di immigrazione, abbiamo parlato dell'8 marzo e dello sciopero di oggi, sul quale tra l'altro ci state scrivendo molti messaggi anche via WhatsApp, e devo dire molti sono un po' contrari. Qualcuno ci dice si può combattere la violenza sulle donne anche senza scioperare e bloccare un paese. Personalmente non lo concepisco, ma appunto, come si diceva, questo sciopero divide molto. Ci siamo occupati dei 100 morti a Kabul in Afghanistan nell'attacco di un commando armato contro l'ospedale militare, della morte di Danilo Mainardi, dell'etologo e anche di calcio, ovviamente, con la partita del Napoli, anche degli scontri davanti al Mattino di Napoli per l'arrivo di Matteo Salvini. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo dalla Liguria. Salutiamo Sonia Viale, che è assessore alla sanità e vicepresidente della regione. Buongiorno Viale, benvenuta. Grazie, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, dove state? Avete proposto una legge che in realtà è sulla scorta di una legge che già esiste in Lombardia ed è stata approvata nel 2016. Ed è una legge che proibisce alle donne che indossino il burka o il niqab di accedere ad ospedali o uffici pubblici. Ce ne spiega il senso? Sì, ecco, il senso è quello che lei ha detto. Non è una legge, perché la legge esiste già da tanti anni in Italia, perché è proibito stare in un luogo pubblico, aperto al pubblico, in modo tale da non farsi riconoscere, quindi col volto coperto. Quindi è una legge già. In Liguria faremo una delibera di giunta nella preciseremo che negli uffici di nostra competenza, e quindi tutte le aziende sanitarie, gli ospedali e gli uffici regionali, non ci si potrà fare in modo tale da non farsi riconoscere. Di conseguenza il burka sarà ovviamente proibito negli uffici regionali. Ma ovviamente questo, sono l'assessore alla sanità, siccome sono stata ovviamente qualche modo attaccata da altre forze politiche. Sì, il tema è questo, Viale, lo riassumo io, no? C'è qualcuno che dice, soprattutto al Partito Democratico, dice tutti hanno diritto a essere curati indipendentemente dalla religione che professano e da come si vestono. Questa è la valutazione che viene fatta da chi vi si oppone, da chi si oppone a questo progetto. Senti, io 5 Stelle pensano che possa esistere un medico che nega le proprie cure in base a come è vestito una persona che ha bisogno, forse vivono in un altro mondo. Io se un medico mi offonderei. Nulla di tutto questo abbiamo detto. Abbiamo detto che nei luoghi non ci si può recare col volto coperto. Perché dirlo però in concomitanza dell'8 marzo? Perché a mio parere il burka è il simbolo internazionale della peggiore discriminazione o atto di sottomissione che oggi può subire una donna. La cancellazione dell'identità. Noi siamo riconosciuti perché abbiamo un nome e un volto. La stessa carta d'identità reca il nome e la foto. Costringere una donna a andare col viso coperto, inaccessibile, e non essere riconosciuta è la negazione della persona, quindi essere individuo ed essere titolare di diritti. Senta, Viale, ma non è che se una donna sta male e arriva col volto coperto le negate l'accesso al pronto soccorso, no? Questa è una fesseria, posso dirlo, perché merita. No, no, ma tipo di... non è che... perché non esiste. Non è una fesseria, è una domanda. ma la fesseria, chi può pensarlo, certamente non è rivolta a lei. Non esiste, non può esistere un medico che nega la cura a una persona. Non esiste. Il medico cura una persona indipendentemente da chi è, dalla razza, dalla religione, eccetera. Questo è un principio sacrosanto, è nella nostra Costituzione, guai a chi può pensare una cosa del genere. Invece c'è un motivo di sicurezza che deve impedire alle persone di girare col volto coperto, essere irriconoscibili. Il burka, che sembra lontano anni luce da noi, in alcuni paesi di fanatici, è l'unico modo in cui una donna si può difendere dalle aggressioni, altrimenti viene ferita con l'acido. E purtroppo in alcune realtà della nostra Europa alcune donne vivono col burka, e questo è consentito. Non è un atto di libertà consentire alla donna di vivere con un burka, è un atto di discriminazione, e ripeto, una donna così non ha un volto, non ha un nome, non ha una identità e con di conseguenza nessun diritto. Oggi è la giornata dei diritti delle donne, partiamo da lì, dall'essere persona. Grazie Sonia Viale, assessore alla sanità e vicepresidente della Regione Liguria. E visto che è di questo che parliamo e di quest'8 marzo che parliamo, voglio salutare Maria Giuseppa Alcicchia, responsabile dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano, che è tra l'altro l'ideatrice del protocollo EVA. Buongiorno dottoressa Falcicchia, benvenuta. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, leggiamo dai giornali oggi che questo protocollo EVA, che è di fatto un protocollo per consentire una maggiore prevenzione della violenza nei confronti delle donne e dei reati connessi allo stalking, è un protocollo che di fatto è stato esportato in tutte le questure italiane, una sorta di modello Milano, che vi ha consentito un maggior numero di arresti e anche un calo dei reati nel corso dell'anno. Ci dice come funziona? Allora noi siamo partiti da un'osservazione, un numero incredibile di interventi, delle volanti, soprattutto nelle ore serali notturne, quando evidentemente anziché trovare pace e ristoro nelle case nascevano conflitti e violenza, riscontravamo molte liti in famiglia. Da questa osservazione di questa guerra domestica, come ha detto il capo della polizia, l'italiano evidentemente è un popolo di pubbliche virtù e vizi privati, è nata l'idea di ottimizzare quella che era una legge, la legge dell'ottobre 2013. Se si opera in flagranza, e non è la prima volta, per maltrattamenti in famiglia si deve arrestare obbligatoriamente. Da qui è nata l'idea di processizzare degli interventi, di effettuare la formazione del personale con la collaborazione della Procura della Repubblica di Milano. Abbiamo trasformato un reparto di uomini empatici, sensibili, che arrivano, sanno leggere oltre le parole, vanno oltre anche la ritrosia di una vittima a fare denuncia e sanno raccogliere quegli elementi, e soprattutto abbiamo tracciato i precedenti, lasciandone traccia nei nostri terminali, nel cosiddetto che poi mi scusi Falcicchia, è quello che leggiamo quotidianamente sui giornali, cioè le vicende di donne che magari vengono uccise o picchiate da uomini che hanno già colpito in passato e si sono già resi protagonisti di questo, e sono le cose che ci fanno imbestialire, ci fanno diventare pazzi, perché non riusciamo a capire come sia possibile, no? Che una persona che ha già fatto una cosa di quel genere possa tornare a colpire. Sì, questo è un po', diciamo, la cosa più drammatica, che spesso ci sono anche delle denunce, ma i tempi della risoluzione di un caso non coincidono con l'istantaneità di una rabbia, di un impulso aggressivo e violento portato alle estreme conseguenze, mentre il nostro intervento, la capacità di arrivare quando i fatti stanno accadendo, magari la seconda, terza volta, ma in una fase che anticipa di fatto qualunque episodio violento irreversibile, consente come se spegnessimo una fiamma, cioè quell'arresto, cioè, del genere ulteriormente. se non ci sono le condizioni per l'arresto, comunque interveniamo con l'allontanamento in via d'urgenza dalla casa familiare. Cioè diamo un ristoro in quel momento e informiamo la vittima di quella che può essere l'assistenza e la rete esistente sul territorio in questi casi, per venire fuori da una situazione drammatica dove spesso queste donne, perché la maggior parte sono donne o genitori da parte dei figli, questi sono i casi più frequenti, sì, rimangono intrappolati in una rete di affetti, in una rete di situazioni di legami che creano dei vincoli che vanno anche oltre la dignità e quello che è umanamente possibile accettare. La ringrazio, grazie Maria Giuseppa Alcicchia, responsabile dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano, e come avete sentito è proprio la prevenzione il tema centrale, e come avete sentito da qualche parte si fa e da qualche parte funziona. Alessandro Urzi, consigliere della provincia autonoma di Bolzano, membro del gruppo consigliare L'Alto Adige nel Cuore, buongiorno, torna da noi, salve. Buongiorno, l'Alto Adige nel Cuore. L'Alto Adige nel Cuore, no, perché poteva starci come gioco di parole, tutto sommato. Ma poteva stare, potrebbe essere un suggerimento per il futuro. Senti una cosa, Urzi, allora l'abbiamo chiamata perché oggi dovrebbe essere il giorno nel quale la commissione che se ne occupa dovrebbe decidere sui toponimi dell'Alto Adige, cioè quali lasciare con la doppia denominazione in italiano e in tedesco e quali invece portare al solo tedesco. La preoccupazione che lei ci aveva già espresso da questi microfoni e della quale ci siamo occupati più volte è che in realtà, come dire, prevalga la germanofonia rispetto alla lingua italiana, no? Beh, ha riassunto veramente in maniera perfetta, chiara. Si tratta proprio di questo, cioè di quanto l'Alto Adige... si tratta proprio di questo, cioè di riconoscere quanto l'Alto Adige debba avere il diritto di poter continuare a parlare anche in italiano. Qui vive una comunità di lingua italiana consistente, importante, che in 5 generazioni ormai ha costruito tutta una sua rete di identità sul territorio. I nomi dei luoghi fanno parte della nostra identità, come di quella di qualunque altro cittadino che può vivere in qualunque altra parte del mondo. Cioè, noi siamo abituati, non so, a chiamare un luogo in cui abbiamo delle esperienze legate, che ne so io, a dei picnic con la nostra famiglia, in un modo che ci accarezza il cuore. Siamo abituati a muoversi sul territorio indicando certe località. Ebbene, questo potrebbe non essere più per il futuro, ossia verrebbe introdotto per legge il monolinguismo solo in lingua tedesca, cioè le località pur avendo nome italiano almeno in parte. Urzi, in parte. Lei ha lanciato un allarme nelle scorse ore, perché ha detto: guardate, questa commissione dei commissione dei sei è composta a maggioranza germanofona e ladina, e quindi non è escluso che in realtà la votazione vada appunto in favore della denominazione lingua tedesca. Beh, un po' di condizionamento ci sarà pure, no? Se su 6 componenti 4 sono del gruppo linguistico tedesco, dell'altra minoranza ladina, però tutti di estrazione PD ed SVP sostanzialmente, quindi orientati politicamente in una determinata direzione. E questo è l'ultimo degli elementi di preoccupazione. Io voglio ricordare che solo in queste ultime ore si sono espressi chiaramente contro questa misura, che cancellerebbe con il cancellino proprio la lingua italiana in Alto Adige, 2 presidenti emeriti della Corte Costituzionale come Giovanni Maria Flick e Antonio Baldassarre. Voglio ricordare come c'è stata una mobilitazione di 1/3 dei senatori della Repubblica Italiana che hanno fatto un appello al Capo dello Stato. Adesso oggi sono giunte un centinaio di firme di deputati della Camera dei Deputati che hanno rinnovato il medesimo appello, come il mondo scientifico abbia rivolto anche il medesimo appello. Anche la Crusca abbiamo visto. Allora Urzi, vedremo come andrà a finire questa giornata e che cosa deciderà questa commissione dei sei, e magari torneremo a parlarne domani a decisione avvenuta, e vedremo se questo rischio di una denominazione quasi completamente in tedesco sarà scongiurato. Grazie ad Alessandro Urzi per essere stato con noi. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati mentre prosegue anche la nostra diretta sulla pagina Facebook www.facebook.com/ effetto giorno e poi ritorniamo. Andremo in un paesino del maceratese che sta facendo scalpore perché là un carabiniere ha ucciso un ladro e si sta pensando a una raccolta firme per pagargli le spese legali, e poi torneremo nelle zone del terremoto come facciamo tutti i giorni. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto è metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli sull'immigrazione. Gentiloni si rivolge a Bruxelles, mi attendo più sostegno. Domani ci sarà il Consiglio europeo con l'ombra della decisione ungherese per la detenzione dei richiedenti asilo. 8 marzo, sciopero generale che divide in molti paesi per la parità di salario, di diritti contro il femminicidio. Come avete sentito, Milano esporta il suo modello contro la violenza in tutte le questure italiane. È appena terminato, notizia di pochi istanti fa, l'attacco a Kabul all'ospedale militare. Era stato rivendicato dall'ISIS, che aveva parlato di 100 morti, adesso si parla di 30 vittime. È morto Danilo Mainardi, è stato tra i più noti e stimati etologi italiani, volto anche televisivo, protagonista delle trasmissioni di Piero Angela. Dunque Danilo, da quanto mi scrivete via SMS e via WhatsApp, e non Danilo, come avevamo detto all'inizio. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo in diretta qua su Radio 24, ma anche sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Il nostro giro per l'Italia ci porta adesso in provincia di Macerata, una storia che viene raccontata oggi da Marco Imarisio sul Corriere della Sera. Siamo a Monte San Giusto e la storia è questa. 25 febbraio, dopo una serie di furti, i carabinieri che sono di pattuglia nella zona vedono una persona che si allontana e che sale su un'auto. Questa persona viene loro incontro con la macchina quando loro intimano l'alt, e che cosa succede? Succede che uno dei carabinieri spara e questa persona rimane uccisa. Si apre la macchina e si guarda dentro e si scopre che era un ladro, c'erano degli oggetti rubati, c'erano degli attrezzi per lo scasso. E succede che in paese se ne discute e si arrivano a mettere giù un'ipotesi di raccolta firme per pagare eventuali spese legali al carabiniere. Giuseppe Sardini è responsabile del comitato Difendiamo i tutori dell'ordine, proprio di Monte San Giusto. Buongiorno Sardini, benvenuto. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, qua abbiamo letto addirittura che lei avrebbe parlato di necessità di ronde armate. No, guardi, questa è una cosa che va chiarita e mi sono già premurato di farlo con l'arma dei carabinieri. Io non ho mai parlato di ronde armate e ritengo che siano una sciocchezza fuori da qualsiasi legalità. Noi che ci proponiamo di difendere un tutore dell'ordine, tutto pensiamo meno che alle cosiddette ronde armate. Questa è una sciocchezza sesquipedale. È una sciocchezza, quindi, questa qua delle ronde armate. Sì, ho un'incomprensione dovuta alla raccolta di piccole interviste fatte in giro per il paese. In qualche caso ci può essere stato qualche misunderstanding, ma non da parte mia assolutamente. Sì, vedo qua si racconta anche, no, di sul bancone del bar una petizione con firme per eventualmente pagare, è così, pagare le spese legali. Mi perdoni, ma anche questa è la seconda, spero l'ultima. Noi non abbiamo fatto nessun tipo di raccolta firme, perché lei mi insegna che in questi casi non servono proprio a niente le raccolte firme. A chi le mandiamo? Alla Procura di Macerata? Noi abbiamo costituito un comitato e siete cittadino. Disposti, diciamo così, ad aiutare eventualmente la famiglia del carabiniere nel caso fosse, fosse necessario. E dico anche perché il generale comandante della Legione Marche, Favarolo, ha già detto che le spese legali per il nostro puntato saranno coperte dall'arma. Senta Sardini, ma io non posso credere che allora ci sarà qualche furto, ci sarà qualche problema, però non posso credere a Monte San Giusto, provincia di Macerata, Sardini, il problema della criminalità sia questa roba pazzesca, come se fossimo in una periferia di una grande città. Guardi, non lo credevamo neanche noi fino a un paio d'anni fa. Questa era l'Isola Felice, è uno dei più grandi distretti della calzatura che stanno in Europa. Il lavoro ancora c'era, c'è ancora, ma un po' la crisi l'abbiamo risentita. Eravamo tutti tranquilli e piuttosto, direi, tra virgolette, benestanti. I furti c'erano, ma erano quelli cosiddetti di una volta. Venivano in casa quando non c'era nessuno, quello che trovavano prendevano e poi se ne andavano. Da due anni a questa parte i furti sono cambiati in maniera esponenziale. Ci abbiamo furti tutti i giorni, furti in tutti i quartieri. Una settimana è il paese di Monte San Giusto, un'altra volta è quello vicino, un'altra volta è quella, e poi ritornano. E c'è violenza. Bastonano, picchiano, sequestrano, legano le signore di una certa età, anziane che si portano lo shock per il resto dei loro giorni. Immagini che tre giorni fa in Ancona hanno bastonato, hanno preso a sprangate il magista. Sì, dai, così, per carità, però dico, insomma, qua, ancora parliamo, sì, chiaro, però parliamo, insomma, di un'altra dimensione, di un'altra città, luoghi dove gli episodi di criminalità sono un pochino più frequenti. No, guardi, no, purtroppo non conoscete bene questa situazione locale. I furti sono all'ordine del giorno, sì. Le percosse pure. Riguarda molte parti d'Italia. Senta, certo. qua c'è anche la Lega, no? Sta cavalcando un po' questa protesta che sale dal vostro paese, no? Ma guardi, ognuno cerca di mettere il cappello come può, dove può e quando può. Il comitato che abbiamo costituito noi è totalmente apolitico e cancella di volta in volta qualsiasi tipo di commento che sia di origine partitica. Qui la solidarietà è a 360 gradi, perché la delinquenza compie furti e questo genere di cose senza guardare mica a chi appartiene alla casa. Quindi non c'è un cappello politico? Assolutamente non lo vogliamo, non partecipiamo a queste riunioni, sit-in, fiaccolate. Quello che faranno, perché non è che ci abbiamo l'esclusiva della solidarietà su questo caso del carabiniere nostro. Sì. Tra l'altro ci scrive qualche ascoltatore, dice: fateci sapere i riferimenti, anzi un'ascoltatrice, Clelia, se necessario voglio partecipare alla raccolta fondi per il carabiniere. Vede com'è. Guardi, ce ne abbiamo quasi 15.000, no scusi, ho sbagliato, 19.000 di queste richieste che vengono da tutta Italia, dal nord come dalla Sardegna, come dalla Sicilia, vengono da tutta Italia. 19.000 richieste sono arrivate, sì, di partecipare a questa raccolta fondi. 19.000 richieste, perché c'è stato un errore da parte nostra. All'inizio abbiamo subito detto: costituiamo questo comitato di solidarietà, apriamo un conto corrente qualora ci fosse la necessità di supportare la famiglia del carabiniere, le spese legali, l'eventuale orribile risarcimento danni finale. Invece è successo che l'arma dei carabinieri ha detto subito che pagherà le spese, coprirà le spese legali dell'appuntato, quindi noi il conto corrente non l'abbiamo aperto. Non l'avete ancora aperto. Ma sono tutti pronti per questo tipo di aiuto che possiamo dare, ognuno come può, le piccole cose che possiamo fare per aiutare la famiglia. Grazie Giuseppe Sardini, responsabile del comitato Difendiamo i Tutori dell'Ordine a Monte San Giusto, provincia di Macerata. Ovviamente a quest'ora, come sempre, abbiamo un appuntamento con sindaci delle zone colpite dal terremoto. Dovevamo parlare con il sindaco di Preci, non ci ha risposto al telefono, ma capiamo, insomma, ha un mestiere da fare, è in una zona terremotata e quindi le difficoltà sono quello che sono. Lo sentiremo domani. Traffico Platero, ci sentiamo alla fine per i saluti.